9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 12 luglio, auguri a chi festeggia, se si chiama Giovanni Gualberto, oggi il nome è un po' strano quello che ci propone il calendario liturgico, però auguri ai Giovanni Gualberto o comunque ai Giovanni che festeggiano oggi. E i Doors di oggi mi sembrano appropriati questa volta, non solo ovviamente perché abbiamo avuto la conferma, l'assemblea dell'ABI che ieri ha confermato Giuseppe Mussari alla guida, nei discorsi del governatore della Banca d'Italia e nel discorso del presidente del Consiglio Mario Monti, che ha parlato di un percorso di guerra durissimo cominciato dall'Italia che chiaramente durerà anni, nei confronti dei quali c'è un rischio molto forte, è tornato a sottolinearlo Mario Monti, che l'Italia finisca comunque sotto schiaffo per la volatilità sui mercati. Ma questo è lo sfondo, è uno sfondo purtroppo che ci accompagna da molti mesi, ma oggi la canzone di Jim Morrison mi sembra appropriata per il tema che abbiamo scelto e che è un tema pressoché obbligato, visto che ieri è esploso ed è stato confermato nel giro di poche ore, esploso perché c'è stato un grande scoop di un collega del Corriere della Sera, che già ieri mattina avevamo citato perché era la notizia politica del giorno, e la notizia politica del giorno, rivelata dal condirettore del Corriere della Sera Luciano Fontana, era l'annuncio che Silvio Berlusconi si ricandida a Premier. E la notizia è stata, dopo poche ore, confermata da chi era stato all'atto dell'abbandono del governo da parte di Silvio Berlusconi il leader subentrante, e cioè Alfano. Alfano, lo avete sentito a tutti i telegiornali, a tutti i giornali radio da ieri, ha autorevolissimamente confermato che lui stesso chiede al fondatore di Forza Italia, poi al leader del PDL, di riscendere alla guida come candidato premier del PDL, o di come si chiamerà comunque alla fine di questa legislatura il PDL, perché sostiene Silvio Berlusconi, ha detto Alfano, ha pieno diritto a chiedere agli italiani una specie di riabilitazione politica, della quale ha pieno diritto perché in realtà l'allontanamento era immeritato, gli spread sono ripartiti, non si doveva a Silvio Berlusconi e al suo governo tutto ciò che gli abbiamo attribuito. Quindi è un giudizio esplicitamente contrario a quello che Mario Monti ieri ha pronunciato invece all'Assemblea dell'ABI, quando ha detto che al G20 del novembre dell'anno scorso con Silvio Berlusconi l'Italia è andata vicinissima a una privazione di sovranità. Queste sono le parole dure che ha usato il Presidente del Consiglio, e ha detto che deve essere stata una scena umiliante per Berlusconi. Alfano dice invece che gli italiani hanno pieno diritto a esprimere questo giudizio, come se le elezioni politiche e la candidatura a governare il paese fosse una specie di continuo tribunale d'appello dopo tanti anni, e quindi la conferma è che Silvio Berlusconi potrebbe davvero riscendere in campo. Decidiamo oggi inevitabilmente su questo di riflettere insieme a noi, insieme a colleghi e osservatori di orientamento, opinioni diverse. Lasciate che io premetta solo due brevissime considerazioni da osservatore. La prima è che, per quello che mi riguarda, da tanti mesi me l'avete sentito dire, me l'avete sentito dire tanti mesi prima che nascesse l'attuale governo, non ho motivi per mutare il mio giudizio. Io credo che una parabola del centrodestra di 18 anni sia finita, il giudizio è sotto gli occhi di tutti, ciascuno può pensare come crede, ma chi ha preso tante volte voti con meno spesa, meno tasse e meno debito pubblico, e consegna un bilancio che è più spesa pubblica, più tasse, livelli record, e più debito pubblico, e smentito nei fatti. Detto questo, se molti di voi ritengono liberamente, liberissimamente, che dobbiamo tornare al confronto Berlusconi sì, Berlusconi no, io mi piego, ma non posso che continuare a pensarla nell'interesse di quel programma che deve durare anni. Su questo io la penso come Mario Monti, al netto delle critiche che mi avete sentito molte volte esprimere, perché nel frattempo neanche con Monti abbiamo poi avuto l'abbattimento del debito con gli attivi patrimoniali pubblici, non abbiamo avuto diminuzione di spesa così forte da retrocederla in meno tasse, come giustamente secondo me ieri è tornato a dire il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e come prima di lui aveva detto qualche giorno prima al Parlamento Europeo il presidente della BCE Mario Draghi. Ecco, io credo che quella sia la strada che ancora non abbiamo intrapreso, e mi parrebbe, e qui mi fermo, che non tenere conto del bilancio di questi 18 anni, posso capirlo se Berlusconi pensa che la leadership di Alfano per il momento va solo a picco nei sondaggi, ma che di qui a credere che l'orologio della storia ancora una volta si fermi in Italia, vedete voi. Io su questo non potrò mai pensarla in questo modo. Aspettiamo poi di vedere, e su questo chiediamo ai nostri ospiti mentre io glieli presento, che cosa ne pensano loro poi di quello che sarà il programma. Davvero ci aspetta, per esempio, come dicono molte indiscrezioni, un programma fondato su una via alternativa all'euro, il ritorno alla lira da parte di Berlusconi, di cui aveva già parlato prima dell'Euroconsiglio del 28 di giugno, su cui c'è in un summit di economisti riservato convocato da Antonio Martino tra poche settimane, alla presenza solo di Berlusconi. Non lo so. Lo vedremo. Per quello che mi riguarda, la storia dovrebbe andare avanti, ma può essere che ci riservi una nuova curva la storia italiana. In fondo il ciclo vichiano, quello dell'eterno ritorno, è un copione molte volte già visto in questi anni. Allora, sono con noi innanzitutto l'autore dello scoop, a cui va reso merito, viva viva il giornalismo che poi si trova confermato in poche ore con notizie di questa portata, cioè Luciano Fontana, il condirettore del Corriere della Sera. Buongiorno e grazie a Luciano Fontana. Buongiorno a tutti voi. Poi Francesco Bei, giornalista di Repubblico, buongiorno e grazie. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Giorgio Mulè, direttore di Panorama, buongiorno e grazie anche a te. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Allora, parto da Luciano Fontana. Conferma della notizia, e a questo punto, vista l'autorevolezza dell'indiscrezione, che cosa si aspetta Fontana nelle prossime settimane? Che Berlusconi riprenda adesso, da subito, la leadership, oppure sarà un processo lento, aspettando di vedere cosa succede nei sondaggi, magari pronti anche a ricalibrarlo con squadre nuove a seconda di quello che i sondaggi diranno, una volta che questa notizia si assestasse nel giudizio degli italiani? Ma io penso che tutto accadrà dopo l'estate, nel senso che ritengo, almeno so che Berlusconi in questi mesi estivi vuole lavorare a cercare di rimettere appunto una squadra di direzione del PDL in cui c'è Alfano, ma in cui vuole promuovere nuovi dirigenti, mettere a punto un programma economico. Accennavi poco fa tu la questione dell'euro e del possibile ritorno alla lira, cosa a cui io non credo francamente si arriverà come proposta, ma che Berlusconi vuole agitare come spauracchio in un momento che l'euro è in una situazione di così forte debolezza e ci sta creando tanti problemi dal punto di vista della gestione della nostra politica economica. Forse se la potrebbe riservare nel caso in cui le prossime settimane o il mese di agosto ci riservassero una fiammata di volatilità tale da rimetterci sotto schiaffo e farci richiedere altri provvedimenti oltre a quelli che già ci sono. Può essere che a quel punto... Sì, può essere. Io credo, da quello che ho capito, dalle conversazioni che ho avuto, che soprattutto viene agitato un po' come uno spauracchio nei confronti di chi a livello europeo, dalla Germania ai paesi che hanno una linea di resistenza nei confronti delle richieste dell'Italia, sta bloccando quelle misure che potrebbero dar respiro al nostro paese, cioè bloccare l'aumento degli spread, riportare un po' di equilibrio e di giudizio equanime su quello che è la situazione, su quella che è la situazione economica italiana. Non credo che si arriverà a una proposta così dirompente che Berlusconi e il PDL e tutto il PDL sanno, avrebbe delle ripercussioni ripercussioni molto negative. Il secondo punto, io ritengo che questa è una mossa soprattutto difensiva dell'esperienza di Forza Italia e poi del PDL. Io non ritengo che Berlusconi ragionevolmente pensi di riuscire a vincere la prossima tornata elettorale e a ridiventare premier. Credo che però pensi che la sua presenza riesca a ridare un minimo di forza e di peso nei futuri scenari. Poi, circa 5 giorni fa, una nostra collega Paola Di Caro aveva scritto sul tema della grande coalizione, sul fatto che Berlusconi pensasse a una grande coalizione, avere un peso specifico che ritiene che il PDL in questa situazione non può più assicurarsi, visto i sondaggi che ha, visto questo ragionamento Berlusconi in realtà credo lo faccia da dopo la debacle delle elezioni amministrative, cercare un modo di ridare un minimo di consistenza e di forza e di ruolo al PDL. E ritiene che intorno alla sua figura questa operazione possa riuscire. Poi io sono d'accordo con quello che dicevi nella premessa della nostra trasmissione, che insomma i ritorni al passato sono sempre molto difficili. L'ho anche scritto nella chiusura del pezzo, che è una sfida al limite dell'impossibile quella di Berlusconi, perché molto probabilmente l'Italia non è quella del 94, ci sono state tante esperienze di governo, un giudizio spesso negativo su quello che è stata la conduzione del governo da parte dell'alleanza di centrodestra, e una situazione che ha bisogno di una guida, di una leadership che il passato non può più assicurare. Ecco, l'interpretazione di Luciano Fontana, cioè quella che poi in realtà Berlusconi realisticamente miri a rafforzare un'azionista di una coalizione che restasse più o meno analoga a quella di adesso, e cioè che nessuno poi abbia davvero, vedremo con che legge elettorale, una maggioranza coesa politicamente senza l'attuale centrodestra, e che quindi si debba continuare a un Mario Monti che non si candiderebbe alle politiche, l'ha detto, ma resterebbe in carica per l'ordinaria amministrazione, magari in quelle condizioni potrebbe essere confermato alla guida di un'esperienza di governo. Ecco, che Berlusconi faccia questo annuncio per risalire nei sondaggi e per così dire riconfermare una forza residua, non troppo residuale, di un azionista di quella maggioranza più che di governare. Francesco Bei, questa interpretazione ti convince? Perché la mia obiezione, e qui parla l'appassionato della cultura politica mia, cioè quella che crede necessario, a maggior ragione se Berlusconi scende in campo, che si rilegittimi un'area liberale per meno Stato, meno tasse, e che guardi però anche all'Italia che è tagliata fuori dal mercato, a chi sta male, eccetera, eccetera, cioè quelli che diventano ex produttori e quelli che rischiano di non diventarlo mai in Italia. Ecco, io credo che la discesa in campo di Berlusconi potrebbe avere un effetto paradossale, cioè spingere pezzi di quest'area a capire finalmente che bisogna ricominciare dal basso e rilegittimarsi in maniera che niente abbia a che fare con tutto questo. Sono due interpretazioni diverse. Bei, che dici? Ma intanto dico che, diciamo, stando all'oggi, un primo effetto questo annuncio lo produce su Alfano, perché quanto diciamo come diceva Fontana, lui voglia cooptarlo in una squadra, così diciamo tutta l'ipotesi che portava a primarie ad Alfano candidato premier del centro del PDL è destinata a cadere, per cui cioè, ipotizzare come facevi tu che lui possa fare questo annuncio per rivitalizzare l'area di centrodestra, il PDL, salvo poi comunque fare un passo indietro, non mi sembra credibile. L'altra cosa che volevo dire è che diciamo, a me preoccupa questo annuncio, perché questo annuncio di Berlusconi prefigura una campagna elettorale giocata sui toni non della grande coalizione, della continuità con Monti, delle politiche di rigore, ma al contrario io vedo purtroppo in vista una campagna alla Santanchè, diciamo, per semplificare, e il convegno a cui facevi cenno, quello con Antonio Martino, ecco, punta proprio a cavalcare una linea anti-euro, quando invece, come tutti sanno, come sanno quelli che si occupano di queste cose, l'Italia è impegnata e lo sarà per molti anni purtroppo in un durissimo percorso di risanamento e di rigore. Ecco, io temo il paradosso di cui parlavo è questo: è difficile che un PDL condotto da Berlusconi in campagna elettorale tutta giocata contro l'euro, contro la Germania, poi possa essere oggi l'azionista di una grande coalizione. Cioè, la vedrei molto difficile, ecco. Ma al punto tale la vedi difficile che questo potrebbe spingere la sinistra a quel punto a superare le divisioni di opinione politica, eccetera, a abbracciare la linea Avasto, perché torneremo a tutti contro Berlusconi, e a quel punto la sinistra forse a vincere proprio in nome di questo, sia pure magari attraversata da divisioni interne. Ma anche quella sarebbe un'ipotesi che con la continuità di Monti fa un po' a pugno, no? Certo. Purtroppo, diciamo, questa ci ripiomba in un incubo questo annuncio, cioè l'incubo di un'Italia ancora divisa tra Berlusconi sì e Berlusconi no. Addirittura oggi ho letto che Bossi dice ci saremo tutti e due, quindi una grande rimpatriata di quelli che ci hanno portato dove siamo adesso, ecco, quindi, e questo spingerà, come dici tu, sicuramente anche diciamo, la parte opposta a cavalcare di nuovo l'antiberlusconismo, per cui avremo un finale alla greca, temo, questa volta. Per cui non so se sono ancora in onda. Sì. Ecco, quindi a me preoccupa molto questo annuncio, diciamo, anche per i suoi effetti di sistema e per le ricadute che può avere sui suoi schieramenti. Mulè, a questo punto, dal tuo punto di vista, prevale più l'effetto ricompattamento a sinistra o nella ripresa dei sondaggi, al quale poi forse assisteremo, ma è ipotizzabile visto come erano scesi, se non intervengono, ripeto, nuove offerte politiche in questo campo? Attualmente è presumibile che poi avvenga così. Quali dei due effetti, il ricompattamento del centrodestra o lo spingere a sinistra su posizione di antiberlusconismo, secondo te è più rilevante ai fini della rottura dell'esperienza in corso di Monti? Berlusconi, diciamo che con questo suo annuncio ha fatto un grande favore all'economia italiana, all'editoria italiana, a coloro che vivono di antiberlusconismo militante, che erano seriamente in crisi. Basta vedere i dati di vendita del Fatto, che sono scesi in maniera evidente da quando Berlusconi aveva fatto il passo indietro. Farà un piacere a chi appunto gode nel parlare di incubo, di una conflittualità perenne. Farà piacere a Rosi Bindi, a Franceschini, a quell'area del PD che al di là del berlusconismo non sapeva guardare. Diciamo che la nuova discesa in campo di Berlusconi ci dice diverse cose. Ci dice che non vi è evidentemente una classe dirigente, o comunque non c'è una leadership nuova all'interno del centrodestra, e questo dopo 18 anni di Berlusconi è sicuramente un punto drammatico che dovrebbe far riflettere chi all'interno del PDL ha assunto o ha cariche di rilievo. È un problema vero ed è reale, che è lo stesso poi che vive in maniera speculare, se vuoi, il PD, che è alle prese ancora con le primarie, le primarie di coalizione, di partito, con i disastri che la segreteria del PD ha provocato con i suoi candidati perennemente perdenti da una parte all'altra dell'Italia, sud e nord, isole comprese. Il fatto che Berlusconi torni in campo torna sicuramente un clima di risse, di veleni, di conflittualità, quindi torneremo di nuovo a parlare dei processi, della prescrizione, insomma tutti quei temi di cui c'eravamo, almeno io, sinceramente non ho mai stufati, anche perché i 18 anni di questa canea giudiziaria altro non hanno prodotto che infinite assoluzioni, e poi Berlusconi casca non sulle oggettine, su Mills, su altro, ma cade sullo spread, quindi insomma torniamo anche lì sanamente sul terreno. Quello che il governo italiano in questo periodo, gli impegni che ha preso a livello diciamo europeo, non sono impegni che possono essere disattesi, sono impegni stringenti. Non dimentichiamo che peraltro nell'agosto dello scorso anno tutto è partito da quella famosa lettera che era prescrittiva della BCE, dell'Unione Europea, al governo italiano, lettera che peraltro sappiamo poi dai retroscena essere stata in qualche modo, se non suggerita, concordata con l'Italia, quindi è molto difficile che le riforme del lavoro e tutte delle pensioni possano essere messe in discussione. Quindi tu dici, in realtà invece di paventare, Berlusconi sarebbe poi obbligatoriamente su questa linea di continuità? Scusami? Berlusconi non potrebbe intaccare più di tanto questa linea di continuità degli impegni? No, questo cioè, oramai sono dati acquisiti. Poi, come dire, la battuta sull'euro, poi lì appartiene tutto, come dire, al piccolo mondo della politica, per cui gli annunci sono stati, mi hanno capito male, come Squinzi che dice una cosa con la Camusso. Chiaro cosa dici, sì. Un conto è teatro, l'altro conto è la sostanza. Eccoci tornati in studio, l'argomento è la conferma dello scoop del Corriere della Sera ieri su Berlusconi. Berlusconi che si ricandida a Premier. Abbiamo sentito Luciano Fontana, l'autore, il condirettore del Corriere della Sera, che ha avuto subito conferma ieri di questa novità, e poi l'opinione di Francesco Bai di Repubblica, l'opinione di Giorgio Mulè, il direttore di Panorama. Prima di salutarlo volevo richiedere a Luciano Fontana un'opinione su quello che ha detto prima della pubblicità Giorgio Mulè, definitiva poi la serie di impegni così rilevante che l'Italia ha assunto col governo Monti, ma anche nella continuità poi con le tre manovre, perché quattro manovre del 2011, tre furono assunte dal governo Berlusconi-Tremonti, la quarta è il Salva Italia, ma su una linea di continuità senza poi cambiarne le impostazioni, più tasse, fu assunta poi da Monti. Dice Mulè, più di tanto in realtà Berlusconi, al di là del teatro, del colore, delle concessioni per riattirare l'attenzione su di sé di un certo mondo di centrodestra che ha il mal di pancia rispetto all'eccesso di rigore impostoci dai cattivi tedeschi e così via, in realtà poi la linea non può che rimanere di continuità. Condividi questa opinione, Fontana? Ma io quello che posso dire è che ho visto in questi mesi Berlusconi sempre sostenere Monti sempre lealmente, nel senso che c'è stata la fila di dirigenti che sono andati a chiedere la spallata nei confronti del governo Monti, e ci sono stati sia, come dire, incontri riservati e prese di posizione esplicite, per esempio tutta l'area di ex AN dentro il partito ha premuto moltissimo perché si assumesse un atteggiamento molto più duro nei confronti di Monti, che andava dall'astensione su alcuni provvedimenti alla mancata fiducia, addirittura al ritiro della fiducia. Non solo l'area di ex AN, ma anche ministri come Brunetta, per esempio, hanno pesantemente contestato Monti. Berlusconi ha sempre bloccato questo tipo di iniziative, quindi credo che da parte sua ci sia la consapevolezza che questo percorso duro, difficile, di uscita dalla crisi e di rimessa in senso dell'economia è un percorso che durerà a lungo e che va rispettato al di là delle uscite, come dire, più o meno estemporanee. Se si guardano i dati di fatto un po' più sulla lunga distanza, si vede che questa è la linea di tendenza e questo è l'atteggiamento di Berlusconi. Per il resto lui fa una scommessa sul recupero del suo partito, sulla riaggregazione di un'area moderata, perché ritiene che nel paese ci siano ancora tanti elettori moderati che non voteranno mai per un'alleanza, che non sono disponibili a votare per un'alleanza imperniata sul PD, sull'IDV e Vendola. Io non so se questa scommessa sarà una scommessa vincente, ho anche molti dubbi, perché poi l'esperienza e il giudizio sul passato sicuramente peseranno. Non ritengo che ci sarà un cambiamento di rotta rispetto al percorso che il PDL ha avuto nei confronti del governo, insomma, anche dopo il 2013, degli impegni che sono stati assunti e che resterà e che dovremo onorare, credo, per molti anni. Grazie quindi a Luciano Fontana. A Bei chiedo invece l'opinione su un'altra cosa detta da Giorgio Mulè. Giorgio Mulè è partito dalla constatazione che in realtà, facendosi da parte in questi mesi, da novembre in avanti, Berlusconi ha come lasciato il tappeto rosso ad altri e ha detto si faccia vedere, si mostri davvero la tempra, il valore di una leadership alternativa, di un gruppo dirigente alternativo del PDL, e ha detto Mulè la constatazione drammatica è che in realtà questa occasione non è stata assunta, non è stata superata con un successo da un vero e proprio gruppo dirigente alternativo. Condividi questa opinione, che cosa ci dice? Forse in tanti si aspettavano che poi il PDL o si dividesse o ci fossero alla luce del sole, anche di fronte a queste divisioni del sostegno al governo Monti di cui parlava Fontana. In definitiva poi in realtà Berlusconi ha sempre messo tutto in linea. Io penso che è un giudizio molto, molto duro quello del direttore. Credo che, ecco, a parziale giustificazione, non voglio qua, se sarebbe curioso che io mi mettessi a difendere Alfano, e tuttavia, poveretto, tutte le volte che ha provato a fare un passo avanti, a immaginare un PDL diverso, a lasciarsi alle spalle senza rinnegarla l'eredità berlusconiana, cosa che, insomma, non era semplice da fare, è subito intervenuto Berlusconi direttamente o per interposta persona a tarpargli le ali. Ricordiamoci il quid, Angelino è tanto bravo, ma gli manca il quid e così via. Per cui, insomma, giocare questa partita da parte di Alfano con una mano legata dietro non deve essere stato semplice. E posso solo immaginare l'umiliazione oggi del povero segretario del PDL che si è trovato sul Corriere della Sera questo annuncio e mestamente a margine dell'assemblea dell'ABI l'ha dovuto confermare facendo buon viso a cattivo gioco, dicendo sì, saremo tutti con lui, io in prima persona, così mandando a farsi benedire le primarie, il congresso. Tutto l'armamentario con cui aveva cercato di risollevare il PDL. E secondo me una parte del PDL c'è, e alcuni di loro. Aspetta, non si sente bene. Tu hai detto una classe dirigente del PDL, secondo te c'è? Sì. C'è, penso a Quagliariello, penso a Frattini, penso, insomma, ci sono anche persone valide lì dentro. Il problema è che ci vorrebbe un atto di coraggio, simile a quello che ha avuto Maroni lì dentro, perché c'è poco da fare, serve un Midas. Nel PDL serve un Midas, è quello che è mancato finora. Maroni ha commentato ieri, quando la notizia è stata confermata, Berlusconi scende in campo dove? A San Siro? Bah, mi fermerò da Alfano. Quindi sicuramente la prima reazione del nuovo leader della Lega non è stata improntata a un eccesso di entusiasmo. Vediamola invece come lei da un altro punto di vista. Cioè, l'altro punto di vista è che in definitiva l'assenza di Berlusconi dalla leadership in questi mesi, da novembre a luglio inoltrato, non ha neanche però condotto a sciogliersi qualcuno almeno dei tanti nodi che si erano accumulati nel centro-sinistra. A oggi eravamo un centro-sinistra in cui Casini, dopo aver liquidato il terzo polo alle amministrative, diceva: alleatevi con noi per far continuare l'esperienza Monti. E il PD che non era in condizioni di dare una risposta. Allora c'è simmetricamente anche, questo spiega perché poi Berlusconi pensi, ma allora perché non riscendere in campo? Un problema simmetrico, sia pur diverso, nella leadership e nel gruppo dirigente del centro-sinistra? C'è sicuramente un problema di leadership che appartiene a tutta la politica italiana, perché nella mancanza di leadership è venuto fuori un fenomeno che in parte va letto in questa direzione, che è quello di Grillo, che non è un leader di partito, ma è anzi la negazione. È una pericolosa deriva autarchica che nega la democrazia, ammantandosi invece di questa finta democrazia partecipata di internet. Il problema dell'Italia in questo momento è un problema di leadership, altrimenti non saremmo finiti nelle braccia di Monti, altrimenti il segretario del PD avrebbe risolto in questi 6 mesi di campo libero, senza Berlusconi tra i piedi, i problemi all'interno del suo partito. Non solo non ha saputo affermare questa leadership, ma i risultati intermedi lo hanno castigato malamente a Palermo, dove dopo Napoli, Cagliari, eccetera, eccetera, eccetera, il candidato, ripeto, ribadisco, della segreteria è stato bocciato. Adesso l'occasione prossima è quella delle regionali, della presidenza della Regione Sicilia, che è un test fondamentale sia per il centrodestra, che in Sicilia ricorda il 61-0 del 94, ma insomma viaggiava soltanto 5 anni fa a percentuali vicino, prossime al 40%, è un centrosinistra che non ha saputo sfruttare l'onda contraria del berlusconismo. Dovessi guardare al di là del centrosinistra, rimane soltanto Casini e Di Pietro, il primo Casini che oramai, come dire, ondeggia anche un po' pericolosamente, un po' ha occhieggiato con Alfano all'inizio della sua esperienza, poi è andato a finire, come abbiamo visto, con Bersani, ma ancora da grande non ha deciso dove andare. È Di Pietro che è destinato a essere, come dire, una ruota di scorta di schieramenti, uno schieramento che dovrà decidere quale sarà il suo futuro. Insomma, dopo che è tornato Berlusconi, a me non è che mi meraviglierebbe troppo se si tornasse a parlare di Prodi, anzi già se ne è tornato a parlare, per E esempio, io qua ti per la volevo, Presidenza della e io Repubblica. qua proprio qua ti volevo, perché e lo chiedo a Bei, questa ipotesi che logicamente ci sta, perché se si fa il corso Vichiano e si torna indietro, lo si fa da una parte e lo si fa pure da parte di quello che per 2 volte poi lo ha battuto a Berlusconi, l'unico. Esiste secondo te questa ipotesi concreta? Cioè, in definitiva Romano Prodi potrebbe essere uno dei tanti felici davvero poi nel centro-sinistra a questa notizia che Berlusconi rieccolo. Tu dici, parli della corsa al Quirinale? Ma parlo in realtà della riacquisizione di la leadership, di un punto di riferimento, cosa che negli ultimi mesi era evidentemente, non dico svanita, ma si era molto attenuata, ecco. Ma io penso che, ecco, tutto al più per Prodi, appunto, si possa pensare a un candidato, non so quanto di bandiera, quanto reale, per la corsa al Quirinale, che mi sembra più che mai apertissima. Non addirittura immaginare un ricorso Vichiano che lo riporti a sfidare il Cavaliere mi sembrerebbe veramente fantascienza a questo punto, anche perché ci dovrebbe scontrare con un certo Bersani che non mi sembra che abbia molta intenzione, ecco, di farsi da parte. Va bene, allora. Comunque, io ringrazio. Posso aggiungere una cosa, Oscar? Certo. Scusami, mi sembrava importante, tu lo ricordavi all'inizio, l'intervento oggi di Monti all'assemblea dell'Abieri, sì. Sì, può anche essere letto in maniera maliziosa come una risposta all'annuncio di Berlusconi. No, io lo leggo esplicitamente così, perdonami, perché è ovvio, perché ha rimarcato molto nel passaggio sull'umiliazione della perdita di sovranità del G20, non lo aveva mai detto, quindi io mi prendo la responsabilità di dire che sono sicuro che Mario Monti ha commentato in quel modo. Siamo in sintonia, come spesso capita. No, ma questo basta fare un po' di mestiere conoscendo Monti per sapere che se ha deciso di dirlo non avendolo mai detto, era come dire: italiani, pensateci, che quello vi ha portato vicino all'umiliazione. Dopodiché l'altro poi si è sfilato e lo ha appoggiato più lealmente di tanti altri. Quindi questo, come al solito, ci consegna una situazione leggermente paradossale. Io allora saluto e ringrazio anche il direttore di Panorama. Dorsi, ridatemi Dorsi, disidente. Ma voi sapete che l'alfa e l'omega sono legati e non c'è niente di più della letteratura apocalittica per sapere che questa parte aggiunta dovuta all'onirico Giovanni si deve in realtà a un punto che non è la fine di niente. L'Apocalisse è l'inizio di una redenzione, e chi lo sa se dopo 18 anni questo passaggio non faccia parte in realtà dello stesso tipo di letteratura. Però, senza esagerare, innanzitutto chiediamo ad Alessandra Ghisleri, che è il direttore dell'Istituto di Ricerca Euromedio Research, che cosa, alla luce dei sondaggi che ha compulsato e ha realizzato in questi mesi in cui il centrodestra scendeva, e regolarmente abbiamo visto poi alle amministrative con quali risultati, dopo che Berlusconi aveva abbandonato la leadership nel novembre scorso, cosa si aspetta che adesso avvenga di fronte a questa novità del ritorno di Berlusconi? Allora, buongiorno a tutti. Intanto dobbiamo dire che quello che emerge è una valutazione di quelli che potrebbero essere degli scenari analizzati in più, a più riprese e in più tempistiche, con la possibilità che un partito senza il proprio padre fondatore si releghi in un angolo al di sotto del 10%. Il bacino d'utenza maggiore si è registrato in presenza di un progetto politico relativamente differente rispetto all'attuale, perché l'attuale, cioè Angelino Alfano come segretario, Silvio Berlusconi come padre nobile e presidente del partito, rileverebbe un dato intorno al 20%. Il bacino d'utenza invece su un nuovo progetto che richiami, diciamo, le origini iniziali, quindi come se fosse un ritorno al futuro, no? Con l'energia e l'entusiasmo di quella Forza Italia e di quella squadra che partì nel 92, nel 94, con un partito nuovo, diciamo, dal punto di vista del sentimento, riuscirebbe a raggiungere dei valori molto alti, cioè dei valori come bacino d'utenza tra superiori intorno tra il 28 e il 32%. Però, considerando evidentemente uno zoccolo duro berlusconiano, una parte di indecisi che potrebbero essere trascinati dalle scelte, e una piccola parte di quegli altri partiti che magari ritroverebbero la fiducia, evidentemente su un piano strategico completamente strutturato e nuovo. Nei sondaggi di questi mesi, la componente, diciamo così, nostalgia della base PDL, ex Forza Italia, poi PDL, nei confronti del Berlusconi che lasciava il campo, si comportava con grande lealtà, al di là di qualche intemperanza. Altri del PDL avevano intemperanze verso Monti, l'abbiamo ricordato, l'ex Presidente del Consiglio no. Questa componente della nostalgia era stimata, stimabile nei sondaggi? Ma la componente nostalgia esisteva anche in più situazioni. Da una parte si possono rilevare delle nostalgie del periodo, quindi il periodo e quindi il momento tolti dalla crisi in una fase di lancio, in una situazione diversa. E poi invece abbiamo una nostalgia legata alla possibilità di, più che altro, di quello che si poteva fare e non si è fatto, del fatto che l'aspettativa poi alla fine di questo governo di tecnici, diciamo che ha relativamente tradito, perché la paura è quella che non ci sia una pianificazione per una diminuzione possibile del carico fiscale. Quindi lei dice, in realtà, più della componente nostalgia nei sondaggi è quello che si è mosso nella pancia della società italiana in questi mesi di constatazione di tasse crescenti, moria di imprese, disoccupazione che sale, e l'effetto di delusione per questo, che probabilmente poi è un percorso ancora lungo, ci dice Monti, quello che poi può esercitare l'effetto maggiore, più che la nostalgia, che fa cambiare anche idea a Berlusconi. Sì, perché non è proprio il discorso nostalgico, è proprio il discorso della pianificazione. È ovvio che la credibilità politica è stata messa in gioco trasversalmente da tutti gli scandali che hanno coinvolto i differenti personaggi a livello di tutti i partiti. E quindi la possibilità è quella di ritrovare una serenità e evidentemente non tanto una grande coalizione, ma la possibilità di lavorare insieme per un progetto futuro italiano. Questo sarebbe il sogno utopico italiano. Allora, si sentirebbe, naturalmente no, perché lei fa un altro mestiere, non fa né vaticini né pronostici, no. Ma esatto, beh, questo mi è chiarissimo, quindi non glielo chiedo, io non le chiedo di fare un pronostico, ma quanto tempo ci vorrà invece statisticamente perché l'effetto di questa roba diventi sondaggiabile e attendibile? Settimane, bisogna aspettare settembre per capire qual è il punto di caduta di una nuova cristallizzazione dell'effetto degli italiani a questa novità, secondo lei? Intanto la novità deve essere, insomma, conosciuta, diffusa e condivisa, giudicata dall'italiano medio e da tutti noi. Quindi, cioè, vuol dire che deve essere un progetto politico spendibile. Esatto, quindi ci vuole un annuncio vero e va metabolizzato. Quindi prima dell'autunno, turco, non va, mi pare. Prima dell'autunno è inutile fare sondaggi veri per farci capire. Cioè, li si può fare. No, quello che stavo dicendo, quello che noi abbiamo prospettato con questo era una sorta di analisi di quelli che erano i margini d'utenza. Quindi la possibilità dei diversi scenari in campo, in una situazione proprio di stallo e di confusione e di destabilizzazione della gente, perché la paura è quella che il carico fiscale aumenti unitamente all'aumento dell'IVA, e noi aspetteremo che le persone serie come Alessandra Ghisleri e quelle di altri istituti poi ci dicano. Io saluto Alessandra Ghisleri e nell'ultimo minuto e mezzo vi dico come la penso io. Oggi, 12 luglio, Giovanni Gualberto, mi sento di dirvi dal profondo del cuore, senza mettere in imbarazzo la radio che mi ospita, Radio 24, che a questa notizia alcuni di quelli che la pensano come me, credo non pochi, decidono in questa maniera, con un appello a tanti di voi italiani di reagire. Noi che ci sentiamo liberali, offesi e presi in giro in tutti questi anni, per meno Stato, meno spesa e meno tasse, per un percorso di ripresa dell'economia italiana, che metta insieme quelli che diventano ex produttori e quelli che non lo diventeranno mai. Non perché siamo delusi da Monti, ma perché non ci riconosciamo nella linea che è esattamente uguale a quella dei 20 anni precedenti, più tasse, e che come vedete aggrava il PIL e deperisce il gettito. Non ci riconosciamo nella linea delle patrimoniali che già ci sono, l'IMU, il conto titoli, sulle automobili di lusso, sugli aerei, sugli elicotteri, sulle barche. Abbiamo buttato via 50.000 barche italiane dalle coste italiane con tutta l'economia che ci dovevano portare. Di fronte a tutto questo, noi non ci riconosciamo certo al Berlusconi che torna, perché questo è fuori di dubbio, e vorremmo cambiare anche questa linea che secondo noi è un rigore mal concepito. Allora, poiché non ci riconosciamo né in questo né in quello, abbiamo deciso di farvi un appello. Lo vedrete tra qualche giorno, io di qui non posso dire di più perché io qui faccio il giornalista pro tempore e spero di continuare a farlo perché non entrerò mai in contraddizione con quello che penso. E da cittadino a cittadino, e non sicuramente perché mi sono montato la testa, diffidate di chiunque vi dica o vi faccia pensare che mi sono montato la testa. Ci sono energie italiane, dal basso, senza carismatici liderismi. È chiaro che i partiti che vengono fondati da un tycoon, come si vede quando il tycoon fa un passo indietro, deperiscono e non sono compatibili con la democrazia e con il confronto interno, ma non sono compatibili neanche con la rappresentanza di quei valori che hanno dichiarato per tanti anni e con cui molti di voi li hanno votati e tanti altri li hanno avversati perché non ci hanno mai creduto. Allora, a questo rendiconto si tratta di mettersi una mano sulla coscienza e alcuni di noi hanno deciso di chiedervi collettivamente di metterla insieme a noi e di capire se proprio per questo e anche per questo non sia necessario, nei pochi mesi che abbiamo di fronte, dare vita a un'altra cosa che nell'offerta politica non c'è, costruendola dal basso, senza liderismi e senza, sappiatelo bene, che io faccio mestieri diversi dai pochi che no già non so fare. Vedremo, chi vivrà vedrà, ma di sicuro tornare a 18 anni fa non è cosa a chi è avanti negli anni come me che possa attirare. Intanto, appuntamento a domani.